Focus Economia. Sette 06 Focus Economia, buon pomeriggio e bentrovati da Vincenzo Miglietta. Settimana che inizia sul fronte dei mercati, così come si era chiusa venerdì, ossia con segno positivo. A trainare le contrattazioni mi sono ancora i buoni dati arrivati dagli Stati Uniti sulla creazione dei posti di lavoro a luglio. Numeri questi che, oltre a fornire segnali confortanti sull'economia americana, dopo lo stop del PIL del secondo trimestre, sembrano alzare le probabilità di una stretta ai tassi di interesse americani entro la fine dell'anno. Ed ancora bene la produzione industriale in Germania a giugno, più 0,8%, che dà linfa agli scambi di Francoforte. Uno sguardo allora ai listini: in questo momento FTSE MIB 0,51%, i migliori e i peggiori sempre del FTSE MIB, li guardiamo insieme: Banco Popolare, Unipol, Azimut, Popolare Milano, Mediobanca tra i migliori, Monte dei Paschi, Iux, Luxottica, Campari e Ferragamo tra i peggiori. Gli altri listini europei: DAX Francoforte in questo momento più 0,54, FTSE 100 Londra più 0,18, CAC Parigi sostanzialmente intorno alla parità. Per quanto riguarda Wall Street, dopo un avvio positivo, in questo momento si balla tra il segno positivo e negativo. Dow Jones meno 0,06%, Standard & Poor's 500 meno 0,06%, Nasdaq meno 0,27%, euro su dollaro 1,107. Uno sguardo anche alla sterlina: dopo il taglio dei tassi di interesse della Banca d'Inghilterra, euro su sterlina 0,849. Dicevamo del buon andamento dei bancari. Oggi parleremo dell'assemblea di Veneto Banca. Un momento di discontinuità, questo, rivendicano i nuovi vertici rispetto al passato. Beniamino Anselmi è intanto il nuovo presidente. Per i piccoli soci l'impegno ad acquisire azioni a 0,10 euro. Altro approfondimento poi di Focus Economia di oggi: come cambia la mappa regione per regione della possibile evasione fiscale. È il Sole 24 Ore di oggi a mettere a confronto redditi dichiarati e consumi effettivi. Chiuderemo quindi con le Olimpiadi, parleremo non dell'aspetto sportivo ma di quello economico: quanto sono costate al Brasile, quanto è stato rispettato il budget rispetto al preventivo e poi quanto di Made in Italy c'è a Rio tra campi sportivi e dotazioni tecniche. Questo allora è il nostro sommario di oggi. Potete scriverci al 349-238-6666 oppure sulla pagina di Focus Economia. Passiamo ora alle notizie in breve. Notizie in breve che apriamo con le materie prime. L'oro meno 0,1% a $1,334 l'oncia, il petrolio più 2,5% a $42,8 il barile. Per quanto riguarda l'economia internazionale, il colosso americano della grande distribuzione Walmart ha annunciato l'acquisizione della piattaforma di commercio online Jet.com per una cifra pari a $3 miliardi. Si tratta di una delle acquisizioni più grandi di sempre nel campo dell'e-commerce, con la quale Walmart intende lanciare la sfida ad Amazon. La produzione industriale tedesca è cresciuta a giugno dello 0,8%, e quanto risulta dai dati del Ministero dell'Economia tedesco, a maggio la produzione aveva subito un netto calo, meno 1,3%. Parliamo di pensioni per quanto riguarda l'Italia. Il pacchetto pensioni in arrivo con la legge di bilancio potrà contare al massimo su una dote di $1,5 miliardi, e questa, secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza e di governo, la cifra limite sulla quale si stanno esercitando i tecnici per trovare il giusto mix tra le varie misure. Di sicuro arriverà l'APE, l'anticipo dell'assegno per la flessibilità in uscita. Si ragiona sulle altre misure: in Pol ci sarebbero le ricongiunzioni da rendere gratuite e l'aumento delle quattordicesime per gli assegni bassi. 1,5 miliardi, dunque quello che potrebbe mettere sul piatto il governo. Vediamo il fronte sindacale cosa dice. Il lavoro svolto sino ad ora dai sindacati e dal governo al tavolo sulla previdenza è stato positivo. Resta il nodo delle risorse per tradurre i capitoli oggetto del confronto in provvedimenti concreti e fruibili. È quanto scrive Domenico Proietti, segretario confederale della UIL, in una nota. Noi riteniamo che per rispondere efficacemente alle questioni affrontate dal tavolo pensionistico siano necessari 2,5 miliardi, dice ancora Proietti. La pubblica amministrazione avrebbe dovuto passare il 12 agosto dal cartaceo al digitale completo, ma sarà un addio soft. Secondo quelle che stanno per diventare vecchie regole, il 12 agosto questo switch non ci sarà. Le innovazioni proposte sono diverse da quanto si apprende. Il governo, in un consiglio dei ministri che arriverà a giorni, sta valutando infatti una sospensione delle precedenti disposizioni con l'obiettivo di aggiornarle, una riserva di tempo di alcuni mesi, probabilmente 6, che potrebbe consentire alle amministrazioni ritardatarie di riagganciarsi facendo riferimento direttamente ai nuovi standard di documento informatico. E vi ricordiamo che potete scriverci su per qualsiasi argomento al 349-238-6666. Veniamo ad una fotografia scattata da Mediobanca sull'industria, sul panorama quindi dell'industria sia privata che pubblica. Nell'industria e nella finanza italiana rispetto al 2014, nel 2015 c'è stata una forte contrazione del settore pubblico con fatturati in calo del 16,1%, una forte espansione di quello privato con fatturati in crescita del 7,5%. E quanto emerge dunque da questa ricerca e studi di Mediobanca su 50 maggiori gruppi? Nel complesso, rispetto al 2014, nel 2015 il fatturato dell'industria ha perso il 5%, senza le dismissioni pubbliche il calo sarebbe stato dell'1,1%. Le aziende al top nel 2015 operano nella moda, meccanica e grandi opere. Parliamo allora di marchi come Moncler, Brembo, Luxottica, Exor e Salini in pregilo. Il primo gruppo pubblico è Poste, in coda l'ENI. Un altro dato molto interessante che arriva da questo rapporto di Mediobanca: nelle industrie italiane, sia pubbliche sia private, in media un dipendente guadagna 31 volte in meno rispetto all'amministratore delegato, ma se quest'ultimo cumula altre cariche si può arrivare a 43 volte. E quanto emerge dunque da questo studio di Mediobanca, che aggiunge l'età media dei componenti dei consigli di amministrazione è 58 anni ed è invariata rispetto al 2014, è aumentata la quota rosa, passata dal 26 al 30%. E poi un aspetto interessante della crisi: si discute sempre su chi abbia pagato il conto più salato. Gli stranieri sembrerebbero aver pagato la parte più pesante proprio di questi ormai 6-7 anni di crisi. Tra il 2009 e il 2014 infatti il tasso di occupazione degli immigrati nella penisola è sceso di 6 punti percentuali rispetto ai 2 persi dagli italiani. I maggiori effetti negativi al nord, dove si è passati dal 68% di persone in attività del 2008 al 59% del 2014, lo rivela l'indagine dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro fornita all'ANSA, in cui si sottolinea che negli ultimi 10 anni gli stranieri sono più che raddoppiati, salendo da 2,2 milioni nel 2005 a 4,9 nel 2015, e ad aver preso la residenza è stato l'8,3% rispetto al 3,9 iniziale. L'argomento banche poi lo tratteremo ampiamente. Parliamo di Veneto Banca perché si è svolta a Volpago del Montello l'assemblea di Veneto Banca, la presenza di 418 soci titolari del 97,71% degli oltre 10 miliardi di azioni ordinarie. I lavori sono stati presieduti da Giovanni Schiavon, vicepresidente di Veneto Banca, data l'assenza del presidente Ambrosini, e all'ordine del giorno vi erano le dimissioni del consiglio di amministrazione in carica e l'elezione del nuovo consiglio di amministrazione. Amministrazione. Vediamo quello che è stato detto in questo appuntamento molto importante. Oggi inizia il nuovo corso di Veneto Banca, contrassegnato dalla discontinuità rispetto alle passate gestioni in termini di legalità, trasparenza, controlli e strategie. Così il presidente di Atlante, Penati, in una dichiarazione rivolgendosi ai soci e ai clienti in occasione proprio dell'assemblea. La banca deve tornare rapidamente al suo ruolo costitutivo e alla sua missione di impresa, custodire in totale sicurezza i depositi e i risparmi dei clienti e finanziare i progetti di famiglie e imprese delle zone in cui opera e che sono fra le più sviluppate e ricche di imprenditorialità d'Europa. Numeri ora, numeri dati dall'Associazione Bancaria Italiana. In aumento i depositi bancari a fine giugno 2016 di quasi 45 miliardi di euro rispetto all'anno precedente, lo fa sapere l'ABI informando che l'ammontare dei depositi raggiunge a fine giugno un livello di 1.321,3 miliardi. Si conferma invece la diminuzione sempre su base annua della raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni. E se i depositi bancari aumentano, secondo l'Associazione Bancaria Italiana, non si arresta invece la stretta del credito per il settore edile. Tra il 2007 e il 2015 i finanziamenti per l'edilizia sono scesi dai 52,5 miliardi del 2007 ai 18,2 del 2015, meno 70%. Il calo è proseguito anche nel 2016 con una riduzione dei finanziamenti nel primo trimestre dell'anno del 16,9%, con 3,8 miliardi erogati contro 4,6 dello stesso periodo del 2015, e quanto emerge dagli ultimi dati resi disponibili dall'ANCE, che sottolinea come il settore delle costruzioni sia stato quello che ha subito la maggiore restrizione delle erogazioni di finanziamenti. Andiamo rapidamente a chiudere le nostre notizie in breve. Ogni giorno però c'è una notizia relativa alla capitale, prima i rifiuti, poi abbiamo visto ai rifiuti si stanno sommando i problemi per quanto riguarda la mobilità. Parliamo dell'ATAC, non solo SOS Bus a complicare la situazione non rosea del trasporto pubblico a Roma. C'è il rischio a settembre di una metro a ridotta. Se non arrivano subito 18 milioni di euro per la manutenzione, ci sarà una riduzione graduale dei treni e questo si tradurrà in ritardi, tempi di attesa più lunghi in banchina proprio nel mese in cui riaprono scuole ed uffici. Ad aggravare di più il caos trasporti potrebbero essere le dimissioni, si è parlato di presunte, probabili dimissioni del direttore generale dell'ATAC, che però poco fa ha detto, parliamo di Marco Rettiglieri, non ho mai parlato di dimissioni. E noi allora ci fermiamo qui con le notizie in breve, ora il nostro primo approfondimento. Nostro primo approfondimento che dedichiamo all'evasione fiscale, così cambia la mappa del rischio evasione, titola oggi il Sole 24 Ore. Ne parliamo con Cristiano Dell'Oste, collega del Sole 24 Ore. Buonasera Cristiano. Buonasera. Cristiano, allora, da quando è partita la crisi economica, oramai quindi 2008-2009, sembra che si sia ridotta la forbice tra quello che ogni anno gli italiani dichiarano come reddito e quello che poi in effetti si è andato in questi anni consumando. Non so se sbaglio in questo mio riassunto, quindi come deduzione potremmo dire che forse la crisi sta incidendo su quel delta di evasione fiscale. Allora, diciamo che esiste un dato che è strutturale, l'abbiamo osservato ormai da più di 10 anni, da quando ci sono le serie storiche dei redditi dichiarati e dei consumi monitorati dall'Istat, che è appunto questa differenza tra quello che viene dichiarato al fisco e quello che le famiglie spendono in termini di consumi finali, appunto rilevati dall'Istituto di Statistica. È come se tutti gli anni fatti 100 euro, quelli dichiarati al fisco, ne venissero spesi in Italia 121 spiccioli. Quindi diciamo che è un paese che in apparenza strutturalmente vive al di sopra delle proprie possibilità. Diciamo in apparenza perché poi lo ricordavi anche tu poco fa, non possiamo nemmeno dire che questa differenza venga finanziata attingendo ai risparmi, in parte perché i risparmi non sarebbero sufficienti e in parte perché gli stessi dati dell'ABI ci dicono che in realtà i depositi tendono a crescere, anche se poi magari diminuiscono altre forme di investimento. Però è chiaro che in questa differenza c'è una componente di economia sommersa che noi abbiamo misurato, diversificata anche sul territorio, quindi si va per esempio dal primato della Calabria al minimo del Friuli. Ora c'è da chiedersi come la crisi ha cambiato questo quadro. Ebbene, quello che noi vediamo è che sicuramente negli ultimi anni la forbice si è leggermente ridotta, come dicevi giustamente tu. Sì, sì. Resta però ancora una differenza enorme tra quello che viene speso ogni anno e quello che viene dichiarato. Siamo nell'ordine dei 177 miliardi di euro. E allora, per rispondere alla tua domanda, è un segnale che l'evasione si sta contraendo, questo assottigliarsi della forbice? Probabilmente no, non abbiamo una prova definitiva, ma se andiamo a vedere, vediamo che sono diminuiti sia i redditi dichiarati colpiti dalla crisi, sia i consumi. Quello che cambia è che i consumi sono diminuiti più dei redditi, quindi è come se in qualche modo in un paese in cui comunque l'economia sommersa è enorme, noi avessimo visto che il lavoro irregolare ha sofferto la crisi forse più di quello regolare. Il che non vuol dire necessariamente che sia diminuita l'evasione, ma come per esempio ricorda nell'intervista che riportiamo oggi anche Giannola, il presidente della Svimez, potrebbe essere che si è semmai esasperata la dinamica dell'economia sommersa, quindi lui parla anche di forme selvagge, di irregolarità, pagate magari ancora meno, con lavoro nero usato in modo ancora più aggressivo, e questo potrebbe spiegare anche perché sono diminuiti gli stessi margini di profitto, certo, dell'economia. E tra l'altro Cristiano, ricordiamo che non è un dato di adesso, ma comunque sono un paio di anni che vediamo anche i consumi stessi, quindi i dati ufficiali sui consumi che indicano andamenti molto altalenanti, per cui questa riflessione aggiunta a quello che tu stai dicendo in effetti danno l'idea che non è che la maggiore evasione fiscale abbia poi contribuito a un rilancio dei consumi. Esatto, tra l'altro ci sono almeno due fenomeni da tenere presenti quando si usano queste statistiche. Il primo è che purtroppo, come riconosce la stessa convenzione appena siglata nelle scorse settimane tra il MEF e le entrate, è che c'è uno scartamento temporale, per cui adesso noi stiamo ragionando sull'anno d'imposta 2014, che è l'ultimo disponibile. E poi l'altro scarto temporale importante è quello nell'effetto che si verifica in termini di politiche fiscali, perché siccome i redditi vengono dichiarati indicativamente sei mesi dopo il loro effettivo incasso, ebbene anche le politiche fiscali intese sia in senso restrittivo che in senso espansivo, i segnali che vengono dati ai contribuenti in termini di contrasto all'evasione li si vede con un po' di ritardo. Non è un caso che l'anno peggiore dal punto di vista del rischio evasione, cioè quello in cui sono diminuiti i redditi e sono cresciuti i consumi, sia stato il 2011. Uno dice, beh, ma nel 2011 uno dice, beh, ma nel 2010 quali erano le dinamiche? E le dinamiche in realtà sono quelle da valutare guardando il 2011, quando è sì arrivato il governo Monti, ma è arrivato dopo sei mesi in cui evidentemente la percezione generale era stata ben diversa, perché poi Monti si è insediato soltanto in autunno, quindi non si deve confondere un anno che potrebbe sembrare di rigore quando in realtà il reddito che è stato dichiarato in quell'anno lo è stato facendo riferimento ai primi sei mesi. Ovvero quello che si capisce benissimo da quello che tu dici, ma lo esplicito se riesco ancora maggiormente, è che poiché dichiariamo i nostri redditi a distanza di sei mesi, se in questi mesi sono intervenute delle politiche fiscali del governo più o meno restrittive, siamo anche indotti a dichiarare più o meno e quindi siamo influenzati dalle politiche che vengono fatte in quel lasso di tempo. Certamente, così come una cosa che adesso non possiamo ancora monitorare, ma che presto vedremo, sarà l'effetto di tutto questo cambiamento diverso, perché l'hanno chiamato così anche le entrate nei loro atti ufficiali, che è stato impresso alla lotta all'evasione. Da quando è entrato in carica il governo Renzi si è accelerata la linea che punta sulla cosiddetta compliance, cioè sull'adempimento spontaneo, un po' questa politica di dialogo con il contribuente che punta non soltanto a fare i controlli, ma anche a inviare le comunicazioni preventive di anomalia che servono per così dire a consentire a chi ha sbagliato in buona fede o a chi non si è accorto di certi errori, o magari diciamolo anche a chi un pochino ci ha provato, di rimettersi in carreggiata senza dover avviare una vera e propria attività di accertamento che è impegnativa e costosa anche per la stessa macchina pubblica. Di queste comunicazioni ne verranno inviate 400.000 quest'anno, si punta ad arrivare a 500.000 nel 2018. Quindi l'effetto di queste comunicazioni andrà inevitabilmente ad investire certo. gli anni futuri, esattamente certo, da qui. Certo. Tra l'altro da questo punto di vista bisogna anche fare attenzione perché la Corte dei Conti nella sua relazione sul rendiconto dello Stato ha un po' lanciato l'allarme dicendo che comunque nel 2015, quando c'è stato il record degli incassi da lotta all'evasione a 14,9 miliardi, però in quello stesso anno 2015 sono diminuiti del 4% gli interventi eseguiti dalle entrate, proprio perché c'è una sorta di sfasamento, quindi gli anni in cui si raccoglie in termini di lotta all'evasione non sono gli anni in cui si semina da questo punto di vista, e allora bisognerà vedere se tutte queste comunicazioni e questa politica del dialogo daranno poi i frutti attesi, e questo lo si vedrà tra un pochino di tempo. Tra un pochino di anni. Cristiano, allora, noi vedremo quello che succederà nei prossimi anni. Abbiamo detto, la nostra premessa era di rigore, che i dati sono relativi al 2014, se non sbaglio, ma esatto. Abbiamo fatto questa premessa per arrivare però poi ai numeri veri e propri, che sono quelli forse un po' più gustosi. Della paginata oggi sul Sole 24 Ore a tua firma. Ricordo solamente, allora, questi numeri, lo dicevi tu, quasi 180 miliardi di euro l'anno di evasione, su 41 milioni di contribuenti solo lo 0,1% denuncia più di 300 mila euro, il 62,89% sta sotto i 26 mila euro. E poi ad ancora, Cristiano, un dato molto interessante, qui ci saranno le inevitabili polemiche: Calabria, Sicilia e Campania sono le regioni in cui il gap tra consumi e redditi risulta più elevato e superiore al 30%, numeri che apparentemente sembrerebbero incontestabili. Ma diciamo che per contestarli bisognerebbe mettere in discussione o il dato certificato dalle entrate o quello dell'Istat, nel senso che qui stiamo parlando davvero di un divario netto. Poi è chiaro che possono esserci delle variabili territoriali, si potrebbe obiettare, per esempio, una delle regioni con il divario più marcato è anche la Valle d'Aosta, si potrebbe obiettare che qui ci sono consumi portati anche dai turisti in una regione con pochi abitanti, voglio dire, ci possono essere delle differenze, ma quando il dato viene proiettato poi su milioni di abitanti, come sono appunto quelli delle regioni più grandi, è chiaro che qui abbiamo delle anomalie. Non dimentichiamo che tra l'altro noi abbiamo ragionato in termini di pro capite proprio per tenere conto di tutti i residenti. Nelle regioni del centro-sud, se noi rapportiamo il numero dei contribuenti al numero degli abitanti, c'è anche uno scarto maggiore rispetto a quelle del centro-nord, perché inevitabilmente la disoccupazione è più elevata, e certo. Quindi sono anche meno i soggetti che dichiarano redditi, non soltanto più bassi i redditi, ma appunto si combinano due effetti nel complesso. Nel complesso, certo. Esatto. E allora, dicevamo Calabria, Sicilia e Campania, più giustamente ricordavi Val d'Aosta e Molise. In queste regioni per ogni 100 euro di reddito dichiarati al fisco ne vengono spesi 130, quindi ci sono 30 euro che non ritornano. All'opposto, le regioni in cui i consumi appaiono più coerenti con i livelli di reddito sono l'Umbria, la Liguria, il Lazio, la Lombardia e il Friuli. Quindi è comunque una composizione abbastanza macchia di leopardo, direbbe qualcuno. Sì, diciamo di sì, noi abbiamo tendenzialmente una prevalenza delle regioni del sud, però non dobbiamo neanche essere poi troppo semplicistici nell'andare a difendere o comunque a giustificare il modello del centro-nord, perché poi se andiamo a vedere proprio alla luce della dinamica della crisi quello che è successo dal 2007 al 2014, vediamo che ci sono soltanto quattro regioni in cui il divario tra redditi e consumi si è allargato, quindi potenzialmente la situazione è andata anche addirittura peggiorando, e queste regioni si trovano tutte al di sopra di Roma, sono in particolare la Lombardia e il Piemonte, in cui il divario si è allargato dello 0,7%, e poi la Toscana e l'Emilia-Romagna. Quindi questo cosa ci dice? Ci dice che comunque anche nelle regioni dove il divario è più contenuto, qui dove forse abbiamo un tessuto economico più solido, l'economia irregolare è riuscita a difendersi un pochino di più, perché spesso volentieri noi immaginiamo grandi fenomeni di evasione, grandi gruppi societari, evasione internazionale, che pure esistono, però qui quando siamo nell'ordine di differenze così marcate. Parlando di una evasione diciamo quotidiana che riguarda una serie di attività economiche anche piccole o piccolissime e che spesso consente a intere regioni di stare nella soglia di galleggiamento, perché poi è innegabile vedere che anche al netto dell'inflazione è impressionante un calo dei consumi dell'11% come quello che è stato registrato negli ultimi 10 anni e del 9% come quello che è stato registrato dalla crisi, dall'inizio della crisi ad oggi. Stiamo parlando comunque di una contrazione in termini davvero notevolissimi dei consumi. Grazie Cristiano Dell'Oste, collega del Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo per lo spazio al meteo. Focus Economia. Sette 17:33, di nuovo insieme Focus Economia. 349-238-6666 il numero per i vostri sms. Una notizia uscita ora in agenzia: la Consob sta effettuando un'ispezione, parliamo di RCS, avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza alla società Equitasim di Milano, che ha curato l'OPAS della Cairo Communication nei confronti di RCS, lo apprende l'ANSA. L'ispezione è iniziata mercoledì 3 agosto ed è ancora in corso. L'operazione segue anche le posto della cordata IMH, la cui OPA è stata sconfitta dall'OPAS di Cairo. Nel corso dell'ispezione è stata acquisita diversa documentazione. E noi ora parliamo di Veneto Banca, lo facciamo con l'aiuto preziosissimo del collega Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio Vincenzo, buongiorno a tutti. Marco, allora, oggi Veneto Banca ha eletto un nuovo CDA indicato da Atlante Board che si è poi subito riunito per eleggere il vertice. Il nuovo board è composto dal presidente in pectore Beniamino Anselmi, Sabrina Bruno, Maria Lucia Candida, Giorgio Girelli, Massimo Lanza e via via. La squadra resterà in carica 3 anni fino all'assemblea di approvazione del bilancio il 31 dicembre 2018. Marco, allora, lo leggevamo anche nel nostro sommario, secondo i nuovi vertici oggi vi è stato un effettivo spartiacque tra il passato e il futuro, e sono state anche annunciati impegni per gli azionisti che sono stati fortemente penalizzati. Sì, esatto. Diciamo anzitutto che il Consiglio post-assembleare in corso a momenti dovrebbe terminare con la formalizzazione delle nomine che dicevi. Sì, è vero, si parla forse finalmente della svolta decisiva per la banca. Non dimentichiamo che praticamente oggi la banca si trova ad avere il quarto presidente nello spazio di un anno, e questo dà un po' la misura di quanto siano state agitate le acque in questo gruppo negli ultimi tempi. Forse la svolta buona verrebbe da dire perché avviene a valle di un importante riassetto societario, quello che ha visto entrare il Fondo Atlante, quello che è già socio di maggioranza anche di Popolare di Vicenza, anche appunto in Veneto Banca. Quindi di fatto il nuovo consiglio è il consiglio voluto dal Fondo Atlante. Il presidente Beniamino Anselmi è come dire, un banchiere di lungo corso, si è occupato di molte ristrutturazioni in ambito bancario, insieme a Cristiano Carus, che già era consigliere delegato, sarà chiamato a gestire questa nuova fase, che dovrebbe partire sicuramente dal tema delle sofferenze, che così come per il Monte dei Paschi, così come per la Popolare di Vicenza, sono il primo problema per la gestione quotidiana della banca e anche per le possibilità di essere valorizzate, quindi rivendute di qui ai prossimi mesi. Ecco Marco, ricordiamo che vi è stato quindi nei confronti di Veneto Banca un aumento di capitale da 1 miliardo sottoscritto dal fondo Atlante a 10 centesimi per azione. Atlante è di fatto il primo azionista con una quota di oltre il 97%. È una presenza ingombrante a livello societario quella di Atlante, ma poi nell'effettiva gestione quotidiana vi è presenza o vi è poi libertà da parte del nuovo CDA, secondo te? Ma guarda, dal punto di vista formalmente anche oggi il Questio SGR, che è la società che gestisce il fondo Atlante, ha specificato che, così come peraltro prevede la legge, la società non eserciterà un controllo diretto, quindi di fatto il consiglio che è stato eletto oggi, pur essendo integralmente espressione del fondo, ne è autonomo, quindi deciderà, diciamo, liberamente. Come dici tu, qualcuno lo ritiene una presenza ingombrante, anche stamattina all'assemblea è stato detto, una nota di cronaca qui a Veneto Banca, così come in buona parte delle popolari si era abituati ad assemblee con 5-6 mila persone, ora la banca è un SPA, come dicevi al 97% è controllata da Atlante, quindi stamattina in assemblea, sarà anche che era l'8 di agosto, comunque di persone ce n'erano 300, quindi un'assemblea molto diversa rispetto a quelle del passato, però è anche vero che altri ritengono la presenza di Atlante una presenza salvifica, diciamo così. Non ci fosse stato il fondo, l'aumento di capitale di cui parlavi prima, 1 miliardo che ha cercato di ottenere sul mercato e che non avrebbe trovato senza Atlante, appunto un aumento che sarebbe andato probabilmente deserto o partecipato in minima parte, vista la situazione della banca e anche l'ultimatum dato dalla BCE, l'alternativa probabilmente sarebbe stata impronunciabile, cioè il bail-in, la risoluzione, quindi come dire, certo. Meno male che è intervenuto Atlante. Come dicevamo, adesso la sfida è quella di rimettere in carreggiata la banca, quindi ripristinare la fiducia dei consumatori, dei clienti. Non sarà facile perché molti clienti sono anche azionisti che si sono visti praticamente azzerato il valore delle azioni, valevano 40 euro, adesso valgono 0,1 e sono di fatto illiquide, quindi non possono essere vendute, quindi ripristinare la fiducia dei clienti, ma anche, come accennavamo prima, lavorare sugli NPL e sperare così di trovare magari un compratore, oppure di ritentare la strada della borsa. Questa mattina se ne è parlato in assemblea, in borsa la banca non è riuscita ad andarci nelle settimane scorse, potrebbe ritentare magari a valle di questo percorso. Certamente. Di rilancio fra un annetto. Marco, in un minuto ti chiedo questa gentilezza, aiutaci a capire l'importanza di questo impegno. Allora, Alessandro Penati, presidente di Questio e quindi Atlante, dice: mi impegno affinché i soci non compromessi con le passate gestioni abbiano in futuro diritto ad acquisire azioni a 0,10 euro, lo stesso prezzo pagato da Atlante, qualunque sarà in futuro il valore della banca. È più di una speranza per chi ha perso tutto in Veneto Banca? Ma diciamo che se non altro è la speranza che qualcosa, nel caso in cui la banca dovesse tornare a girare come tutti sperano, qualcosa possa arrivare in futuro. E in questo Penati si sta muovendo nello stesso modo in Popolare Vicenza, per cui il discorso è si sta lavorando su un'ipotesi di warrant, che di fatto sono diritti gratuiti che dovrebbero consentire, nel caso in cui il turnaround debba avere successo, dovrebbe consentire ai soci di vedere incrementata la quota allo stesso prezzo, un prezzo da saldo che in questo caso Penati dice riconosceremo a tutti i soci, anche quelli che di fatto hanno subito i danni maggiori. Bene, grazie a Marco Ferrando, collega del Sole 24 ore. Noi passiamo la giornata in borsa. In borsa che andiamo a commentare, lo ringrazio con il collega Ceo Condina, collega di Radio Core Il Sole 24 Ore. Buon pomeriggio, Ceo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ceo, allora leggo in questo momento FTSE MIB 0,71%. Spiegaci questo risultato, direi decisamente buono. Sì, ma c'è comunque area di vacanze sui listini. ci sono scambi molto sottili e soprattutto diciamo che ha tenuto banco anche l'apertura di Wall Street. Milano è arrivata a guadagnare l'1% a metà seduta, poi Wall Street ha aperto prima sui nuovi massimi storici, poi è scesa sotto la parità e quindi le borse europee hanno comunque ridimensionato i listini. Come evidenziavi giustamente tu, Milano chiude comunque con un buono più 0,7% guidato dai dati, diciamo dai titoli del comparto finanziario, a partire dalla Banca Popolare più 5%, dalla Galassia Unipol, ma anche da Mediobanca e Generali. Performance inferiori per altri listini continentali: Francoforte fa più 0,6% durante le ultime battute di contrattazione, Parigi più 0,1%, Londra più 0,2%. Ecco Ceo, dicevi Mediobanca e Generali salgono, per quale motivo? Ma sì, diciamo che ci sono voci, indiscrezioni di stampa su una possibile idea di rafforzamento del finanziere francese Vincent Bolloré in Mediobanca. Vincent Bolloré detiene il 7,9% del titolo di Piazzetta Cucce, che come sappiamo è a sua volta l'azionista di riferimento di Generali, a cui poi si legano altre voci su una possibile fusione tra AXA, che è la principale compagnia assicurativa francese, con Generali. Quindi diciamo che tutta la galassia, tutto il comparto è sotto i riflettori, di qui gli acquisti sul titolo in borsa. Per quanto riguarda Mediobanca, ricordiamo inoltre che venerdì aveva dato i conti semestrali, conti oltre le attese, di qui il rally in borsa che è continuato con un rialzo del 3%, Generali invece in chiusura segna più 2,05%. Ecco, parlavi di Banco Popolare, bene, e anche Popolare Milano. Per quanto riguarda invece Mediaset, lo abbiamo seguito la scorsa settimana anche con il braccio di ferro con Vivendi. Come è andato oggi in Piazza Affari e soprattutto a che punto siamo in questo braccio di ferro? Beh, diciamo che sul braccio di ferro non ci sono molte novità, nel senso siamo rimasti all'intervista concessa da Pier Silvio Berlusconi ai Financial Times, in cui definiva parole sue ridicole le contestazioni di Vivendi su quella che è stata la trattativa che si è arenata per la cessione di Premium. Per quanto riguarda invece il titolo, Mediaset recupera ancora, ormai in quattro sedute ha recuperato circa il 9%, ma ricordiamo che aveva perso molto, molto, molto terreno dopo appunto il duro scontro con Vivendi nelle trattative per la cessione di Premium, che come sappiamo è la TV a pagamento di Mediaset, quindi un recupero che secondo gli operatori è anche prevalentemente tecnico. Ecco Ceo, mi sembra ci sia stato poi un realizzo oggi nel settore della moda abbastanza generalizzato, ha coinvolto Yux e se non sbaglio anche Luxottica e Salvatore Ferragamo. Sì, oggi tutto il comparto della moda è stato un po' non bersagliato, però comunque soggetto a vendite. Yux arrivava da un rialzo importante a seguito della diffusione dei conti alla fine di settimana scorsa, ha ceduto lo 0,7%, così come Ferragamo. Luxottica ha lasciato sul terreno oltre un punto percentuale, visto che parlavi di realizzi, anche Biper, che venerdì aveva chiuso in rialzo del 13%, la Banca Popolare Emilia Romagna oggi ha ceduto l'1,8%. Ecco Ceo, e andiamo a chiudere, abbiamo letto poco fa di questo flash per quanto riguarda RCS, ispezioni Consob eccetera, questa sarà una vicenda che seguiremo parallelamente, il titolo come si sta comportando? Aspetta che lo recupero, il titolo fa meno 0,46%, quindi il titolo è abbastanza è stabile. Ricordiamo anche che tra giovedì e venerdì il titolo aveva guadagnato molto molto terreno con gli operatori che scommettono sulla nuova gestione di Urbano Cairo. Perfetto, grazie a Ceo Condina, collega di Radio Cor Il Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo, diamo spazio alle strade e poi verremo a parlare del costo delle Olimpiadi. Focus Economia. Money, money, money, money, money. You love me, honey. I just hope he ain't the money, money, money, money, money. Focus Economia, ultima parte della trasmissione di oggi, 17.46, parliamo del business delle Olimpiadi di Rio, Olimpiadi che sono scattate il 5 agosto, 31esime Olimpiadi, il Brasile, lo ricordiamo, si era aggiudicato i giochi il 9 ottobre del 2009 quando puntava a diventare la quinta potenza mondiale a livello economico. Oggi il Fondo Monetario pone il Brasile al nono posto dietro a Italia ed India, quindi lo avrete capito, ma lo abbiamo anche anticipato, ci piace adesso in questi minuti che mancano al giornale radio delle 18 approfondire l'aspetto economico delle Olimpiadi, un argomento questo che si collega anche al dibattito poi, se si vuole, al futuro di Roma Olimpica. Parliamo di tutto ciò, comunque dell'esperienza di Rio 2016 con l'inviata del Sole 24 Ore a Rio de Janeiro, Maria Luisa Colledani. Grazie Maria Luisa di essere con noi. Grazie a voi e buonasera a tutti. Qui in Brasile si sente proprio palpabile la cosa che tu hai detto, cioè un paese che sta accogliendo i giochi, ma che sente pur con molto orgoglio di essere in una fase complicata della propria vita, della propria economia. È vero, c'è l'allegria brasiliana che fa molto, però è percepibile questa cosa di un momento, di una fase calante del paese. Ecco Maria Luisa, ricordo per contribuire al nostro dibattito i dati del PIL del Brasile degli ultimi 6 anni. Punto di partenza, il PIL del 2010, il paese viaggiava a un più 7,5%, poi lo scorso anno una frenata, meno 3,7%, e secondo le stime della Banca Centrale quest'anno in media di fine anno potrebbe frenare ulteriormente del 3,35%. Dall'altra parte il debito pubblico salito lo scorso anno al 62,2% del PIL, il massimo storico dall'assegnazione dei giochi. Diciamo questo per fotografare il paese, certamente non è che questi numeri, Maria Luisa Colledani, dipendano, ovvero la frenata del Brasile nella sua economia, dall'aver organizzato dalle Olimpiadi, ma c'è altro, come la frenata dei prezzi delle materie prime, immagino. Esatto, cioè questo è il grande problema a livello globale, che sul Brasile ha avuto una ricaduta pesantissima. I dati che tu ricordavi prima, ti aggiungo anche un 11% di disoccupazione, quindi un tasso particolarmente alto. È vero che tra gli studiosi, gli economisti che dibattono sull'opportunità o meno di accogliere, di ospitare i giochi, e spesso dicono che i costi, che il gioco non vale la candela, alcuni di loro sostengono che ospitare i giochi in una fase di economia calante possa essere viatico di una ripresa dell'economia, perché la loro teoria è bisogna costruire, bisogna offrire servizi, quindi si mette in moto almeno per alcuni mesi la domanda interna, e certo, sperando che questa domanda interna messa in moto nel semestre dei giochi possa poi essere trascinata avanti per un altro semestre, dando fiato al paese. Io non so se questo avverrà in Brasile, è chiaro che il paese dibatte in modo anche molto forte, con grande conflittualità attorno all'opportunità di ospitare i giochi. È chiaro che una volta che li hai vinti non puoi più tirarti indietro. Un passo indietro, esatto. Era la pianificazione a monte che forse era stata fatta allargheggiando un po' troppo nelle spese, perché mi è capitato in queste settimane, in questi ultimi giorni, di incontrare alcuni dei fornitori italiani dei giochi, ad esempio le piste Mondo, le piscine Castiglione, che hanno allestito tutto il parco acquatico con le 18 piscine, e loro stessi facevano notare come nelle ultime settimane di posa dei loro materiali siano poi stati fatti dei tagli, a dimostrazione di come il comitato organizzatore avesse davvero le casse vuote, tanto che ricordiamo il CIO ha confessato, ha ammesso di aver sostenuto economicamente nelle ultime settimane il comitato di Rio 2016, viste le difficoltà finanziarie dello stesso. Certo, però Maria Luisa, ecco, hai parlato delle aziende italiane che operano ed hanno contribuito fortemente alla realizzazione delle Olimpiadi, e tra poco torneremo su questo aspetto che è molto interessante per la nostra economia. Certamente quando sono state assegnate però le Olimpiadi, credo circa 8 anni fa, se non prima. Nel 2009. Sicuramente non si poteva ipotizzare un crollo così repentino delle materie prime, e parlo soprattutto del petrolio, che per il Brasile è una voce molto importante. Sicuramente il Brasile è stato in qualche modo messo al tappeto da un crollo che nessuno si aspettava e davanti al quale loro però sono rimasti inermi, si sono secondo me fatti un po' trascinare dal loro lasciarsi scivolare tutto addosso, un po' anche perché comunque a livello governativo la presenza di Dilma Rousseff, così criticata, certo, poi all'impeachment di maggio, non è riuscita ad incidere per dare una svolta, un cambio di politiche al paese. È vero che in un paese come questo, che è un continente, non era forse neppure immaginabile che ci fosse una svolta epocale per far fronte al problema delle materie prime. Certo è che nulla è stato fatto, perché appunto la Presidente probabilmente aveva altro a cui pensare, cioè difendere se stessa e cercare di resistere come Presidente. Ecco Maria Luisa, dicevi che il CIO ha dovuto coprire parte dei costi delle Olimpiadi. Ti faccio una domanda che solitamente è difficile, alla quale è difficile rispondere a distanza di mesi se non di anni, quindi immaginiamoci ora che le Olimpiadi sono in svolgimento. Si ha un'idea di quanto siano costate effettivamente queste Olimpiadi? Perché leggo dei numeri molto diversi tra loro, andiamo allora, da 4 miliardi addirittura a quasi 20. Dov'è la verità? Allora, la verità non ce l'ho neppure io. Punto a dire solo che la municipalità di Rio ha detto che ha speso 4 miliardi di dollari tra impianti e infrastrutturazione, di cui il 60% da fondi privati. È chiaro che a tutto questo bisogna poi aggiungere tutta l'accoglienza, tutte le persone che stanno lavorando. È vero che di nessuna Olimpiade poi alla fine si sa bene qual è la cifra finale, una linea secondo me non si tira mai bene. Devo dire che però rispetto ad altre edizioni sicuramente questa, e lo si vede proprio, faccio un esempio su tutti, in sala stampa non vengono dati per la prima volta i risultati di gara, la lista dei partenti in cartaceo, perché costa troppo. Certo. Quindi se tu arrivi a lesinare su delle risme di A4 vuol dire che veramente c'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che non torna. Ti ripeto, la missione del CIO della settimana scorsa secondo me anche a loro è costata molto, perché comunque anche per il CIO significa riconoscere che la scelta di 7 anni fa forse è stata una scelta un po' azzardata. Tieni conto che il CIO, in questo suo desiderio di ampliare i confini del mondo, nel 2008 li aveva portati in Cina, ha cercato la strada sudamericana con Rio, forse però non valutando fino in fondo le capacità e le garanzie che un paese come questo poteva dare a lunga distanza. Indubbiamente. Dicevamo, Maria Luisa, dei numeri che forse non tornano in modo preciso per quanto riguarda i costi delle Olimpiadi, invece numeri che sembrano tornare anche positivamente a quelle aziende italiane che sono partner del CIO e che hanno investito pesantemente, ma con un grande ritorno d'immagine anche in queste Olimpiadi. Allora, parlavi delle piscine Castiglione, ma anche che addirittura ha realizzato 18 vasche olimpiche, e poi c'è, sì, Tecnogym, esatto. Mondo, parlaci un po' di queste aziende. Beh, le aziende italiane sono, come dire, sono delle eccellenze assolute, dalla Mondo che fornisce le piste allo stadio dell'Atletica fin da Montreal 76, quindi una partnership col CIO lunghissima dimostrazione di come il CIO riconosca le capacità di questa azienda, che è un'azienda piemontese delle Langhe. Altrettanto si può dire delle piscine Castiglione, che avevano fornito alcune vasche a Londra 2012 e invece nel parco acquatico di Rio hanno dotato l'intero parco, quindi il CIO ha riconosciuto loro una capacità e un'affidabilità tale da dare loro tutto il parco acquatico, che è uno degli esempi di quella che al CIO chiamano legacy, sulla quale puntano moltissimo, e cioè le 18 piscine di Rio saranno a fine giochi smantellate e rimontate in 18 scuole pubbliche in giro per il Brasile, perché uno dei grandi nodi dei giochi è costruire cattedrali nel deserto e poi vederle, certo, vederle allo sfascio nel giro di un paio d'anni. Ecco, del parco acquatico questo non succederà. Questo non succederà. Maria Luisa, ci stiamo dirigendo verso la chiusura del programma. In un minuto, dicevamo, cosa resta di solito delle Olimpiadi? Resta di solito ben poco. Allora, invece, le piscine saranno destinate a quei quartieri dove non ve ne sono. Stesso discorso, se non sbaglio, per l'attrezzatura Tecnogym. Sì, anche Tecnogym ha fatto un bellissimo progetto, che è stato, la cui validità è stata proprio riconosciuta dal CIO, che si chiama Let's Move for Rio, e praticamente tutti gli atleti, gli sportivi, gli appassionati che scaricano la loro app per l'allenamento daranno involontariamente, perché è un'app gratuita, un contributo per far sì che gran parte dei 1200 attrezzi che Tecnogym ha fornito ai 15 centri di preparazione qui a Rio saranno poi distribuiti nelle scuole, soprattutto delle aree più in difficoltà, quindi delle favelas, delle zone con maggiori problemi riguardo alla formazione, all'istruzione. Quindi anche da parte di Tecnogym c'è stato questo impegno nel lasciare qualcosa alla città, perché appunto il rischio di un'Olimpiade è questo fuoco che si accende per 17 giorni e che poi lascia solo cenere. Le piscine e gli attrezzi Tecnogym ci dicono che c'è speranza anche con le Olimpiadi. Bene, bene, queste sono notizie che ci piacciono e con le quali ci piace chiudere. Ringrazio allora Maria Luisa Colledani, inviata del Sole 24 Ore a Rio de Janeiro. Un ringraziamento anche a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza al programma, ad Alessandro Chiappini e Andrea Roccabella in regia. Un saluto da Vincenzo Miglietta. Radio 24. La passione si sente.